se si va a guardare, molte donne che fanno il sollevamento pesi, prima di andare in gara si truccano perché è come, se, come per dire io sono donna, però alzo il mondo. Ecco, come dire, questa, è come far capire questo concetto. Ecco. Diciamo che noi donne diciamo che vogliamo far vedere quello che valiamo sul serio, perché penso che anche le donne valgano molto quanto gli uomini, perché molte donne hanno, si sa, molte donne hanno vinto Olimpiadi, molte donne hanno vinto tante gare importanti, quindi penso che anche la donna sia in gamba quanto l'uomo.